poi, poi, poi, poi raggiungerò le nuvole su di noi. Raccoglierò la pioggia dagli occhi tuoi e pregherò che non mi scorderai. Poi, poi, poi, poi, poi camminerò nel cielo sopra di noi. Si scioglierà la neve dagli occhi tuoi e pregherò che non mi scorderai. Non l'ho mai fatto per i soldi ma per rimanere. Non mi importa cosa credano di me. Ora che tutti mi cercano per stare insieme, il mio nome viene molto prima di me. Dove eravate quando mi chiudevo in casa giorni, quando mi rimangiavo i sogni, quando uno stronzo con la giacca mi spiegava l'arte, dentro un ufficio che puzzava solamente di soldi, dentro il mio letto un'altra donna scrive dal suo telefono chissà chi scrive. Se glielo chiedo tanto non lo dice, dai non fare story so come si dice. La paranoia mi sotterra dolcemente, con una mano stringe piano piano le mie tempie, mentre le bacio il ventre mi dice solamente che una ragazza seria le è successo raramente. Se mi ricordo bene di te, tu ti ricordi bene di me, quando sulle panchine sdraiati di fianco ci ubriacavamo sognando quel palco. Amico mio, quanto fa male vederti cambiato, quando ti parlo sembri qualcun altro. Ora che ho abbandonato l'arte per essere schiavo ed una stronza ti tiene al guinzaglio, non sono morto di fama, non lo sono mai stato. Non sono neanche montato, non lo sono mai stato. Non sono un cazzo di rapper, non lo sono mai stato. Non ho bisogno di far l'idolo per qualche sfigato. La credibilità di strada ficcatela nel culo, che 17 quasi ci crepava ancora, ci sudo. Non ho mai fatto questa roba per piacere a qualcuno. Ed ora che sono al primo posto non mi sento nessuno. Calmo, piango, penso a Rolex tanto. Quante notti mi ha aspettata sopra un marciapiede al freddo, e quel secchio era il tuo piedistallo. Tu avresti abbandonato tutto per darmi il tuo bene, per darmi tutto quanto. Io che ero terrorizzato dall'idea che una volta scoperti ci ammazzassero entrambi. Poi, poi, poi, poi, poi raggiungerò le nuvole su di noi. Raccoglierò la pioggia dagli occhi tuoi e pregherò che non mi scorderai. Poi, poi, poi, poi, poi camminerò nel cielo sopra di noi. Si scioglierà la neve dagli occhi tuoi e pregherò che non mi scorderai.